and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. E rieccoci all'asilo, K. Per forza. Bisogna farci anche un po' l'abitudine a stare in mezzo ai bambini. Sì, la trasmissione si chiama Chiedo Asilo. Siamo qui. Però sai cosa ti dico? Che stare qui all'asilo, in mezzo ai bambini, non è poi così tanto diverso di stare in mezzo agli adulti. Vedi, io te lo dicevo. Diciamo che l'Italia è una specie di grande asilo, tutto un grande asilo. Certo, no? Però qualunque cosa tu dica dell'Italia poi funziona. Puoi dire che è un grande asilo, che è un grande manicomio, che è un grande ospizio. Sì. Puoi anche dire che è un grande bordello. Il bordello lo lascerei da parte. No. Tu hai notato soprattutto che non ci si vergogna più. Quello è l'indice vero della infantilizzazione del paese. Perché ci si comporta a 50 anni come quando se ne ha 16. A 60 anni uguale, 70 anni uguali. Poi si muore e non si è mai diventati adulti. L'Italia vive in una specie di eterna adolescenza. Sì, vabbè, ma cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo bene, che non abbiamo grandi problemi da affrontare, no? Che possiamo lasciarci andare senza chissà quali conseguenze. Questa la prendiamo come una battuta, K. No, ma che tempi battuta? Come il mio è ottimismo, Drago. Sei tu che non sei ottimista. Vabbè, ma non sono mica l'unico, Guarda che anche il grande giurista Stefano Rodotà pensa esattamente come me. Senti qua. Io penso che noi viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Hai sentito? Regressione politica, regressione in tutti i campi, l'ha detto Rodotà, non so se mi spiego, Rodotà. Rodotà sarebbe quello della privacy. Sì, Rodotà, quello della privacy, però non solo, è un grande giurista, è una persona stimata in modo bipartisan, stringi è quello della privacy, vabbè, no? Però ecco, vedi com'è. Cosa? Questa è la regressione. Ma quale regressione? Scusa, Rodotà, quello della privacy, è come dire, una formuletta facile che tutti capiscono, che però non rende giustizia a quello che è veramente la statura morale di Stefano Rodotà. Vabbè, ma lo devi definire, gli devi fare la statua. Vabbè, però lo vedi perché si regredisce, proprio per quelli come te, che si va avanti così per formulette, per etichette, luoghi comuni, tutte cose scontate, non si approfondisce mai un discorso, siamo proprio all'asilo, guarda, questa è una repubblica asilo. No, una asilo republic, semmai, come diceva il grande Vasco Rossi. Grande Vasco Rossi è grande, ormai ha 58 anni... Diciamo che però, insomma. Però cosa? Cioè, lui più di chiunque altro, diciamo la verità, è una rappresentazione dei regrediti che siamo qua in Italia. Drago, Vasco Rossi, la più grande rockstar italiana. Sì, più grande rockstar italiana, però ha 58 anni e continua a cantare cose come. Vabbè. Se proprio te lo devo dire, non è che poi tu mi faccia così impazzire. Adesso perché devi sbiascicare? Poi cosa c'è di strano? È poesia. Drago, la poetica del fanciullino, Pascoli. Aspetta, che arriva Tito. Cioè, appena uno dice Pascoli, parte il cane da abbaiare. Tu devi dal percorso. Ma non è deviare, ma è la poetica del fanciullino. Sì, ma questo ti sembra la poetica del fanciullino? Ti sembra Pascoli questo? Senti qua. Dio ci resisto, se non ci sei non muoio, non penso solo a te tutte le sere e anche se non telefoni riesco a dormire. Ma voglio dire, hai una certa età, sei senza capelli, quei pochi che hai sono pure tinti. Dentista ormai nella tua bocca ha fatto tutto quello che poteva, tutto. Ma cosa voleva? Che schifo, il dentista, ma Drago. Ma non sarebbe il caso di cominciare a cantare qualcosa di diverso? Una bella canzone sulla psoriasi, sulla dentiera addirittura. Ma la dentiera, così. Bob Dylan, che ha una certa età pure lui, scrive ormai da anni canzoni sulla paura della morte che si avvicina, i temi dell'artista maturo. Ma Vasco è un bambino dentro. Su quello non ci sono dubbi, un bambino di 16 anni che aspetta la telefonata. Non hai capito, anche il suo organismo dentro, lui è un bambino, lui è sano come un bambino. Vasco Rossi, sano come un bambino. Ma certo, ha fatto le analisi da poco. Senti qui cosa dice. Ho fatto le analisi del sangue qualche tempo fa e è venuto fuori che sono perfette. Addirittura le analisi del fegato, mi ha detto che è il fegato di un bambino. Ma perché parla così? Perché è un bambino, è il bambino Vasco, no? Hai sentito, dice che ha il fegato di un bambino, senti. Mi ha detto che è il fegato di un bambino. Vedi, il fegato di un bambino. Forse perché gliel'hanno trapiantato. Ma no, ma che trapiantato? L'hanno preso da un bambino. Adesso vedi che fai confusione con le preposizioni. Ieri era tra e fra, adesso di e da. Fra un po' anche in, con, su, per. Drago, per favore. Chiedo asilo. Oh, finalmente è arrivato il momento. Come cosa? Come cosa? Il talent show, Drago. Il nostro talent show. Stasera comincia X Factor, te lo sì, ricordi? Questo lo so. E allora anche noi a Chiedo Asilo abbiamo il nostro talent show, che si chiama Kid Factor. No, guarda, mi dispiace deluderti, ma proprio come? Non si può. Questa è una radio seria, Radio 24, una radio giornalistica. No, è una radio di news and talks. News and talk, talk. No. Talk. Talk. Vabbè, è news and talk, e allora... quindi insomma non si può fare lavorare i bambini. In pratica bisogna chiedere le liberatorie ai genitori, poi c'è un problema di codice penale, ma la no. Camera del Lavoro, ma la Drago, consulta. Ma il talento, i talent show che ci infestano le televisioni, e non ce n'è nemmeno uno dedicato ai bambini, dove invece il talento è una cosa innata nei bambini, è lì che bisogna indagarlo, non con questi qua tutti con le vestiti strani, ma over che... 24, under 24. Perché vuoi farlo tu? C'è già il talent show per i bambini. No, è quello c'è che già? Fa. Eh sì, è quello che fa la bambina Clerici, come si chiama? Ti lascio una canzone. Ma non sarà so mica un talent show quello lì. Ma, sì, ma non è mica sono un in gara i bambini. Ma tutti non è in gara vero, uno vedi l'altro. Che non lo sai, vedi no, che non lo sai. No, non sono in gara i bambini, sono in gara le canzoni. Come in gara le canzoni? Certo, quello lì è un alibi dell'organizzazione, compresa la bambina Clerici, per non dire quel bambino lì è più bravo di quel bambino là, hai capito? È più bella la canzone che canta quel bambino lì piuttosto della canzone che canta quel bambino là. Ci metti di più a dirlo, però è più politically correct. Sarà politically correct, però scusa, i genitori. Che sono lì, che stanno dietro ai bambini tutto l'anno e li preparano per fargli fare questa gara, li pettinano, gli fanno fare le lezioni di canto, per cosa? Per amore della canzone che cantano o perché vogliono che vincano sto talent show? Vabbè, quindi dai, è così, è una gara tra bambini. Ma non è vero, non è vero, non funziona così, non funziona così. Il mio talent show Kid Factor è tutta un'altra cosa. Vabbè, tanto non si può fare. Ma invece si può fare. Ti devi accontentare della bambina Clerici, che poi guarda, va benissimo a fare i talent show per i bambini. C'è anche proprio la favella, il vocabolario, il lessico giusto. Senti qua. Che bello ritrovarvi qui all'Auditorium di Napoli, che ha fatto da trampolino a questa fantastica edizione di Ti lascio una canzone. Sabato scorso dalla platea, proprio da voi, è arrivato su questo palco un flusso di energia così speciale, una sorta di onda magica che ha trasformato questo show in una vera e propria festa. Vi prego, anche stasera non risparmiatevi, unite anime e cuore, va bene? Ecco, va bene, sembrava anche la bambina Vanna Marchi che ti vende le alghe, va bene? Guarda, la bambina Clerici è perfetta per condurre un talent dei bambini. Il flusso di energia speciale. Queste sono le parole giuste, l'onda magica, ma e l'anima e cuore, soprattutto l'anima e cuore. Sì, perché lei gioca un po' il ruolo della fatina, no? La fatina. La Clerici, Sì. La fatona semmai. Vabbè, fatona, sempre meglio la fatona che il fattone. Chi? Il fattone, Morgan, quello di X Factor. Ex di X Factor. Ah, ex di X Factor. Sì, l'ha mandato, sì, vabbè, comunque l'ha mandato via. Perché l'ha mandato? L'ha messo via? In castigo. Ah. Gli piace lo zucchero, non va bene. Non va bene nemmeno no, quello. Che poi tra l'altro il bambino Morgan e la bambina Clerici dicono più o meno le stesse cose. Dici? Ma senti. La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria. Lussuria, vedi, onda magica, quella roba lì. Dice le stesse robe della Clerici, ma Morgan. Cappa, ma Morgan sta recitando Dante. In sua legge. Oh, meno male che è finita, perché qui con Dante. Ma qui c'è, appunto c'era Dante per una volta che si faceva un po' di cultura. Ma chi se ne frega, siamo all'asilo, Drago, dai. Già non si può giocare, già non si può far merenda, insomma. Però sei sicuro che è già finito? Che dobbiamo fare la radio giornalistica, insomma, no, news and talk. Ho capito, news and talk. Bisogna fare la radio news and talk, ci va il suo tempo. Sei sicuro che siamo proprio già alla fine? Sì, è finita, guarda, ci sono le mamme che scalpitano nell'atrio. È vero, mica male ste mamme. Drago, smettila, la mamma, quando scendi dalle scale della tua classe, è il momento più dolce della giornata. Sì, vabbè. Il tuo sguardo subito corre a cercare il viso familiare, il conforto della tua mamma. E lei è lì che ti aspetta. Non ho capito cosa stai dicendo. La poetica del fanciullino, te l'ho detto. Oh, ecco, signora, ma tu qui non è che sei sempre qui che azioni il tutor, fai azionare il tutor, dai. Vabbè, insomma. Comunque, e tu come torni a casa? A me viene a prendere mio nonno. Ah, vabbè, ma vieni in macchina? Sì che vieni in macchina. No, mi dai un passaggio magari. Se vuoi aspetta qui, no? Stiamo qua. C'è solo un problema però. Cioè? Che mio nonno è morto nel 77. Oh cacchio. Vabbè, allora vado a piedi. Torniamo domani. E gli assenti mandino le giustificazioni a chiedoasilo@radio24.it. Yeah.